Oggi sono un altro uomo con un'altra identità, meno ribelle di un tempo ma con la stessa libertà. Ho imparato a mandar giù bocconi amari in quantità e perdonando non solo banalità. Sono cresciuto in luoghi dove non hai una seconda opportunità, non hai il tempo di riflettere sul vero, sulle falsità, anche credere in qualcosa ti sembra una banalità, perché la vita è la sua priorità. E conti solo sulle tue capacità, senza guardare in faccia la realtà. Voglio un'altra vita, una via di uscita, e anche se la vita non è infinita, questa è la mia sfida e voglio un'altra vita, questa è la mia sfida. Voglio un'altra vita. Raccolgo i cocci della mia sconfitta con umiltà e spero in un'altra opportunità. Affronto ogni difficoltà con serietà, tralasciandomi banalità. Sono indelebili i segni della mia infermità, le tracce sparse di qua e di là, e ogni qualvolta il tempo cambierà, la ferita brucerà e ogni tanto sanguinerà. La mia banalità e mi dimostrerà cos'è l'umanità. Voglio un'altra vita, una via di uscita, e anche se la vita non è infinita, questa è la mia sfida e voglio un'altra vita, questa è la mia sfida. Voglio